GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Bisogna fermare le formazioni jihadiste, non si può lasciare sola la Francia. Crisi in Mali, reazioni delle milizie terroriste, questa mattina a Radio 24 nelle parole del segretario PD Pierluigi Bersani. I francesi sono intervenuti mentre i jihadisti stavano prendendosi sostanzialmente la capitale del Mali. Non è che possiamo lasciare solo la Francia davanti a un problema di questo genere. L'Europa si decida come fare. Abbiamo Prodi che è diciamo inviato dell'ONU nell'area, pacifista assoluto, che tuttavia ha detto questo intervento ci voleva perché se no si perde totalmente il controllo della situazione davanti a formazioni sanguinarie e aggressive. E quindi l'Europa che riprende un po' in mano il bandolo di questa matassa. Naturalmente l'uso della forza, della presenza militare deve essere solo prodromico, deve essere diciamo l'anticamera di una discussione diplomatica, politica, che riesca a stabilizzare l'area. Il segretario generale della NATO Rasmussen esclude intanto una missione dell'Alleanza Atlantica in Mali, pur vedendo di buon occhio il tempestivo intervento militare dei francesi e l'appoggio dato a Parigi da altri paesi membri della NATO. La prossima settimana, 23-24 gennaio, la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo voterà le modifiche apportate alla riforma della PAC presentata da Bruxelles. Il presidente della Commissione, Paolo De Castro, illustra le principali novità. Quali sono le novità principali? Beh, innanzitutto noi abbiamo profondamente cambiato, innovato, modificato la proposta della Commissione in tutti quei capitoli che ci apparivano troppo burocratici, troppo complicati, che avrebbero in qualche modo aumentato i costi di produzione per le imprese nell'applicazione della PAC, ma anche i costi amministrativi da parte degli Stati membri per quanto riguarda i controlli da effettuare. Questo è, diciamo, nel primo pilastro i grandi cambiamenti. Nel secondo pilastro introduciamo un piano finanziario nazionale, quindi anche per i paesi come l'Italia che hanno un'organizzazione regionale sarà possibile fare dei piani nazionali. Infine il grande tema della gestione del rischio, quindi della maggiore diciamo strumentazione a favore delle imprese per gestire meglio le condizioni diciamo di mercato, quindi norme a favore delle OP, delle organizzazioni di produttori per favorire l'aggregazione, norme che in qualche modo tutelino maggiormente gli agricoltori che si organizzano sotto il profilo commerciale e una serie poi di interventi specifici sulle filiere. Infine diciamo un importante pacchetto di misure che riguarda la cosiddetta convergenza interna, cioè il sistema di distribuzione degli aiuti all'interno del paese. Il voto dunque la prossima settimana. L'intervista era di Valeria De Rosa. La Commissione europea avverte intanto la Svizzera: se entro 6 mesi non si otterranno risultati concreti sulle trattative in materia di regime fiscale, alcuni paesi dell'UE potrebbero decidere misure difensive. Bruxelles pretende dunque misure equivalenti a quelle concordate tra Berna e gli Stati Uniti in merito all'obbligo di comunicazione su conti e operazioni finanziarie in Svizzera da parte dei cittadini americani. Ok, dalla Corte di Giustizia dell'UE alla revoca dell'immunità per l'eurodeputato Bruno Gollnisch, storico leader dell'ala radicale del Front National francese, per consentire alle autorità di Parigi di indagare sul reato di incitamento all'odio razziale di cui è accusato in Francia. E con questo si conclude l'appuntamento con GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, torniamo come sempre lunedì a partire dalle 3. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.